Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 17 primi e 7 secondi, siete pronti, siete buoni? Sì, ma noi no, perché noi siamo i cattivi, lo sapete, no, adesso stiamo scherziamo, ma è per presentarvi con un po' di adrenalina queste due ore che sono il nostro aperitivo, un po' con un punto di amaro, un punto di agrodolce per il vostro fine settimana, parlando un po' di economia, parlando un po' delle cose che vanno, che non vanno, con un punto di vista che per chi ci conosce è diventato sempre più documentato, ma capace anche di sorridere, di autoironizzare, di fare qualche commento ironico su un paese appeso di 0,1. Oscar, siamo il puntemes radiofonico della finanza ma italiana. Ma sai che ho capito, caro Alberto, il puntemes ormai siamo non solo noi vecchi che ce lo ricordiamo, questo è il punto, nessuno sa più che cos'è il puntemes di Carlo. No, che lo studiano anche gli studenti delle campagne di marketing. Chi studia marketing se lo ricorda. Era una delle più grandi, insomma, campagne innovative per quegli anni dell'Italia del boom. Allora, i conti della Belva vi salutano, ci sono tutti i compari oggi in edizione completa, oltre a me Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli. Come sempre più avanti nella trasmissione ci collegheremo con la Cina con Rita Fatiguso, come sempre sintesi dei temi della trasmissione per consentirvi di intervenire in trasmissione 800 24 0024, il numero 349 238 6666 per gli sms. In questo sabato di Sant'Adriano che cosa parliamo? Parliamo innanzitutto, lo sapete, via di puntata, Conti della Belva è un argomento fisso, a che punto è la crisi, con Mario Seminerio. Partiremo dalla querelle su come si calcola il PIL del nostro paese, visto che ha dominato i banchi in questi ultimi tre giorni, tra più 0,6, più 0,8, più 0,8, più 0,6 dell'Istat, una qualche pacata, tesi da parte nostra, anche perché appendersi e impiccarsi agli alberi per uno 0,1 non ci sembra molto, però è una questione di metodo, bisogna capire come stanno le cose e nel frattempo dare un occhio anche a come vanno le cose ovviamente sui mercati. Poi, primo grande blocco e prima grande domanda su cui ci aspettiamo che voi ci diciate la vostra, l'800 24 0024: come si è capito, il Presidente del Consiglio vorrebbe accelerare con la legge di stabilità 2017, quindi alla fine di quest'anno e magari anche prima, chissà, prima del voto amministrativo, ha scritto Maria Teresa Meli sul Corriere, e di solito Maria Teresa è una, diciamo così, abbastanza ben informata, come la pensa Renzi, e il Presidente del Consiglio vuole accelerare sulla strada dei tagli alle imposte in deficit, cioè... E Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera ha scritto domenica scorsa: sì, bisogna fare così, i tagli alle spese si spera che vengano, ma in un orizzonte triennale, ma adesso bisogna concentrare in un solo anno una bella botta di un paio di punti di PIL di tagli alle imposte. Ricordo a tutti che nel 2017 in teoria ci dovrebbe essere l'intervento su IRE e SIRAP, quello sui redditi delle persone fisiche dovrebbe essere nel 2018, l'anno ulteriormente successivo. Invece Balzo Chigi vuole anticipare, è in deficit. Domanda: è giusto? Non è giusto? È una strategia sana? Oppure questo scivolare verso il più deficit è qualche cosa semplicemente che ci dice che abbiamo perso la nostra grande occasione l'anno scorso sui mercati e adesso che le cose vanno peggio, in realtà deficit e debito lo mandiamo di nuovo a picco? Ecco, questa domanda, che ha opinioni e risposte diverse, noi la poniamo al professor Luigi Maratin, che sarà con noi, che insegna macroeconomia all'Università di Bologna ed è nella squadra dei consiglieri economici del Presidente del Consiglio. Dopodiché un altro grande blocco in cui ci interrogheremo sulle semplificazioni, che sarà con noi l'autore di un bel libro, l'autore lavora in Banca d'Italia e il libro è molto serio perché è un'analisi comparata di tutti i tentativi avvenuti, a dire la verità con assai poco successo, di semplificare nella pubblica amministrazione italiana, e il sottotitolo del volume è Perché siamo le vittime della guerra alla burocrazia, e l'analisi è fatta proprio capitolo per capitolo in maniera molto seria, dalla giustizia alle procedure autorizzative di un cantiere e così via, per vedere che cosa c'è di sbagliato in quello che è stato fatto finora, per una lezione, che cosa abbiamo imparato e dovremo tentare invece per semplificare davvero di fare. Si chiama Andrea Carapellucci, l'autore autore del libro e sarà con noi. Poi come solito chiudiamo con una riflessione su cosa sta avvenendo in Cina e poi con Renato che ci dice che cosa non può avvenire e invece avviene ancora nel nostro paese. Ma prima di andare alla nostra riflessione con Mario su a che punto la crisi, giro di tavolo su al di là dei due argomenti di cui vi ho già detto, che cosa ha fatto arrabbiare o colpire comunque i componenti del team dei Conti da Belva? Cominciamo da Mario. Ma insomma, io ascoltare, leggere una battuta di dubbio gusto, di problematico gusto da parte della persona che guida l'Agenzia delle Entrate di questo paese, quella sul lato oscuro dell'accertamento, è vero che la dottoressa Orlandi ha precisato che era una battuta anche abbastanza scherzosa che deriva dal fatto che questo è un periodo in cui viviamo immersi, diciamo, nel merchandising di Guerre Stellari. Però insomma, io inviterei la dottoressa Orlandi a essere un po' più consapevole del suo ruolo e delle sue funzioni. Dopodiché si può fare tutto il contrario di tutto. E d'altro canto, se un alto funzionario dello Stato va alla Leopolda e chiama un leader politico per nome, facendo, diciamo, tutta questa sorta di confidenzialità estremamente problematica per il ruolo che rivestiva prima e che ha rivestito dopo all'interno di quell'organizzazione, vuol dire che qualcosa mi pare continui a non quadrare. Dopodiché magari sono io che mi formalizzo, o forse anche no, però cioè, ripeto, un po' più, non si può più usare in questo paese il termine sobrietà, come è noto da qualche anno, perché è fortemente corrosivo ed evocativo di altre cose. Diciamo, cerchiamo di comportarci in una maniera un po' più istituzionale, ecco, solo quello è un invito, una preghiera, penso che poi magari cadrà nel vuoto visto il degrado istituzionale di questo paese. No, visto che lei poi è una gaffer seriale, lo fa apposta perché la pensa così, era quella che diceva che non bisognava fare ricorsi ai dirigenti illegittimi, che era una perdita di tempo, che era vergognoso che qualcuno li consigliasse. Hai perfettamente ragione, dai, in un paese liberale e democratico il fisco può riservare ai contribuenti solo un lato trasparente, il fisco efficiente e trasparente, se ha un lato oscuro un fisco autoritario, dai, su, ma il riflesso condizionato è quello, secondo me. C'è una voce dal sen fuggita, diciamo, di là, il famoso motto di spirito. Il retropensiero che di solito per diplomazia si trattiene, ma è quello che veramente ispira l'assetto di pensiero. E invece, ma, Renato? Purtroppo io sono sulla stessa linea di Mario, nel senso che volevo segnalare però... Ti ha fatto incazzare pure a te, È abbastanza, perché il sistema è questo, che chi fa il mio mestiere lo vede tutti i giorni il lato oscuro. Questo è il vero problema. Il problema è che non è solo una minaccia che è uscita dal seno, sfuggita dal seno come lapsus, perché è quello che pensa, è quello che sta succedendo come ogni fanno, giorno. Già. Perché la nuova strategia delle entrate è il taglieggiamento continuo di piccole cifre. Quindi cosa succede? Che fanno magari moltissimi accertamenti, lo sto vivendo sulla mia pelle, e tanto alla fine però qualche non lo cosa posso raccontare a casa, per evidenti ragioni, con tante piccole taglieggiamenti, perché sanno benissimo che per le imprese c'è un costo di struttura del ricorso che sotto, al di sotto della soglia, cioè, del costo del ricorso, tanto vale pagare, dai, è così. Del tipo, forse te ne chiedo pochi tutte le volte, così tu li si paghi. Chiama taglieggiamento, si, esatto, chiama taglieggiamento. Sì, ma piano piano. E questo secondo me ormai è il lato oscuro, perché è evidente che chi fa il mio mestiere vive questa cosa come un taglieggiamento e come un qualcosa in cui tu non ti puoi difendere e sei costretto a scegliere il male minore. Ma è questo il lato oscuro, appunto. Però ripeto, questo è un fisco autoritario, discrezionale, con incentivi sbagliati ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate sul contestato e non sull'incassato, eccetera eccetera eccetera, quello di cui ci occupiamo da anni. Ma la risposta è: siete amici degli evasori. Caro Alberto, tu invece? Io devo segnalare un meritorio rilievo dei sindacati della Reggia di Caserta, che finalmente fanno presente che qui c'è qualcuno che permane nella struttura fino a tarda ora. Ragazzi, ma come si permette, no? Qui il nuovo direttore va da Bologna, arriva, cosa fa? Lavora fino a tarda ora, ma senza nemmeno informare la struttura della sua permanenza, mette a rischio tutta la struttura. Ma gente pensa che vuole addirittura aprire la Reggia di Caserta, che tutto sommato cos'è? Una specie di capannoncino in provincia di Campobasso, no? È una roba ignorata dal resto del mondo. Addirittura aprire 7 giorni su 7, abolendo il sacro riposo del martedì. C'è scritto anche nella Bibbia che un giorno su 7 bisogna riposarci. Io penso che dobbiamo tutti noi difendere la posizione coraggiosa di questi sindacalisti di Caserta, che fanno onore al loro mestiere, no, difendendo. Cavolo, no, ora questa volta incontro anche la Camusso, che ha detto che forse hanno esagerato. Che tra questi sindacati c'è anche la CGIL, c'è la CGIL, la UIL e così. Non ma quello è giusto modo di interpretare il ruolo del sindacalista, cioè difendere la nullafacenza, che è il pilastro su cui si fonda, cioè la Repubblica è fondata sul lavoro limitato agli orari strettamente garantiti dal contratto. Questo è giusto. Io non capisco, infatti, il presidente del Consiglio Matteo Renzi che insiste con questa storia che la festa è finita, la ricreazione è finita. Mio Dio, no, invece facciamola continuare, per favore, finché morte non ci separi, no? Sono completamente d'accordo con te, e io proprio la dico brutale: nel mio paese ideale, io e questi signori sindacalisti che protestano perché questo alieno da Bologna è riuscito ad alzare nel mese di febbraio i paganti del 70% rispetto all'anno prima, questi sindacalisti secondo me andrebbero cacciati a cacci in culo. Questo io moderatamente penso dei senza poi, mai superare una cosa, non ho capito se si lamentano perché gli fa consumare un sacco di energia elettrica perché tiene accese le luci alla sera. Ma come, sì, per me, senza informare la struttura. Questi girano per la Reggia di Caserta praticamente in infradito con le macchine private, e lui si permette di dire no che devo usare la divisa. È disdicevole. Era il programma Mi illumino di meno, no? Cioè questa iniziativa, no, diciamo. Vabbè. Comunque, viviamo in questo paese, cari signori, e noi ci ridiamo un po' sopra, molto, molto, molto amaramente. Ci sentiamo tra un minuto con A che punto la crisi con Mario Seminari. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. I conti della belva. Ed eccoci qua, tornati in diretta 10 e 19 primi questo sabato 5 marzo, i conti della belva. Io vorrei rassicurarvi, cari ascoltatori, voi che siete tutti anelanti di pagare a luglio il canone in bolletta della Rai, vorrei darvi una notizietta, perché la nuova direttrice di Rai 3 non pagherà più, nel senso che non pagherà più il prezzo al limite che valeva per il suo predecessore di retribuzione, perché il suo predecessore prendeva di meno, capite? E addirittura anche il nuovo pare che della prima rete prenderà 150.000 euro, mentre lei ne prenderà 260.000 con il vostro canone in bolletta. Queste sono le cose che mi fanno incazzare, capite? Perché deve prendere più del Presidente della Repubblica, Daria Bignardi? La notizia di fonte è Fatto Quotidiano. Questa è l'Italia che non ci piace. Scusate se io urlo, però questi sono i fine settimana su cui bisogna metterci un po' di pepe sulla lingua. Perché 260.000 euro? Dice, ma la Rai ha emesso i bond, quindi non è più sottoposta ai limiti delle retribuzioni pubbliche, ma la Rai è pubblica, ci chiedono di pagare il canone in bolletta, 260.000 ma soprattutto euro. Cosa dirà il buon Anzaldi adesso? Chiederà la cacciata di Campo dall'Orto o la cacciata direttamente di Renzi? No, che sono poche, perché la Rai ha diritto di prendere i migliori professionisti. Vabbè. Scusate il tono, ovviamente io urlacchio, però partiamo con la sigla, va? Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta qualcosa non va. Allora, io quando sento questa canzone dico sempre la crisi è così dolce che... No, adesso non esageriamo. Allora, Mario, da dove cominciamo? Direi che dobbiamo cominciare per forza dalla contesa su come si calcola il PIL. Sì, si calcola... Diciamo che questa crisi è finita, Mario, è ora di finirla e di cambiare sigla. Quindi siamo allo 0,8 sì. Finalmente cambia sto cacchio mi di tono. Mi pare che ci siano evidenti segni di frenata della ripresa, più che altro. L'ultima guerra di religione del primo paese produttore al mondo di armi di distrazione di massa. Allora facciamo un piccolo riepilogo, però un invito, cerchiamo di essere tutti seri e adulti, sì, no? Sì. Io mi impegno ad esserlo anche se spesso non ci riesco, farò del mio meglio. Lo sai che io ti batto sempre però in irregolarità, siete tutti molto più seri di me, dai. Il primo marzo Istat ha comunicato il consuntivo 2015 dei conti nazionali, con un aumento diciamo del prodotto interno lordo dello 0,8%. Ok, ci siete fin qua. 2015-2014. Esatto, di tutto l'anno 2015 sul 2014. Contestualmente a questo, Istat ha comunicato una revisione alle serie storiche di alcuni anni precedenti, in cui ad esempio sul 2014, ma non solo, c'era una minore spesa pubblica pari a 2 miliardi. Il sospetto di alcuni osservatori, anche molto qualificati in alcuni casi, era che questa revisione avesse dato una sorta di spinta al 2015. Istat ha replicato con un comunicato ufficiale dicendo che non è così, che comunque la variazione del PIL 2015 indotta dalla revisione degli anni precedenti è infinitesimale, per usare l'esatta espressione del comunicato Istat. Dopodiché ieri è uscita la variazione del PIL quarto trimestre 2015 su quarto trimestre 2014 e il risultato destagionalizzato e corretto per i giorni lavorati è stato più 0,6%. Urca. A questo punto è scoppiata una bizzarra guerra di religione, perché siccome il Premier il primo marzo non ne poteva più di fare un comunicato su Facebook prendendosela con i gufi e con i talk dicendo che appunto già questo 0,8% batteva le stime del governo eccetera eccetera, ieri diciamo molti soggetti hanno detto: ma come, esce 0,6 anziché 0,8? Quindi è successo in pratica un casino di proporzioni bibliche, ma anche abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di essere completamente privi di senso del ridicolo, perché non stavamo parlando di una discrepanza tra un PIL cresciuto del 3 contro il 3,1%, ma tra 0,6 e 0,8. Per farvela veramente breve, perché penso bisognerebbe veramente voltare la pagina e guardare avanti, 0,8 è la variazione 2015 del PIL non corretta per i giorni lavorati. Nel 2015 ci sono stati 3 giorni lavorativi in più del 2014. Beh, merito del governo, esatto. Modifica il calendario, San Gregorio Magno. Fa parte delle riforme strutturali per le quali chiederemo un altro 0,2% di deficit PIL in più. Lo 0,6% è la variazione corretta per i giorni lavorati. Ora, qualcuno dice che ai fini, non qualcuno dice che, è vero, ai fini Eurostat, di calcolo del deficit, del debito e quant'altro, e anche nello stesso DEF del governo, vale il grezzo. Vale il dato non corretto per i giorni lavorati, e prendiamo atto. Ma ribadisco, perché quando ci sono meno giorni poi non ci dicano. No, ma già nel 2015 noi avremo 2016, avremo 2 giorni lavorativi in meno del 2015. Nonostante il governo abbia richiesto esplicitamente la flessibilità sugli anni bisestili. Sugli anni bisestili, esatto, che fa parte. E l'ha ottenuta, dobbiamo dire che insomma che è un grande successo. Chi ci ascolta. No, esatto. Infatti adesso vado a controllare gli SMS perché penso che leggeremo di tutto. Mi ammonisco. Però, allora, parliamo seriamente. I dati del quarto trimestre del PIL italiano, giusto per... Allora, innanzitutto, ripetete con me, da 0,8 o 0,6 non andiamo da nessuna parte. Il paese cresce in una maniera ridicola. Capite questo punto? Il paese cresce in una maniera ridicola. I dati del quarto trimestre 2014 cosa mostrano? Beh, 15. 15, chiedo scusa, mi sto anch'io confondendo. Mostrano l'ennesimo contributo robustamente positivo dei mezzi, della voce mezzi di trasporto agli investimenti. Mm-mm. E questo è sicuramente un dato interessante. Dopodiché, chi è che investirà in mezzi di trasporto in questo paese? Chi ho no, scusa, posso, perché sì. Io faccio l'uomo della strada. Sì. Gli investimenti delle aziende automotive, quindi? Sì, sì, sono vuol quelle dire questa cosa sì, assolutamente tutta sì. La filiera, diciamo, non soltanto. Sì, sì, no, certo. Vuole sì, capire sì. Meglio a chi dobbiamo no, esatto, no, accendere un cero, caro Mario, dobbiamo accendere un cero. Poi un'altra no, cosa, un'altra sì. Cosa che ti preghi di spiegare è sì. Sullo 0,8. Sì. Un certo peso molto rilevante, esatto. Ce l'hanno le scorte. Ecco, spiega del più 0,8% fatto nel 2015. Il contributo della variazione delle scorte ammonta allo 0,5%, mentre il commercio estero netto sottrae lo 0,3%. È verosimile, come ipotesi di lavoro ma non solo, che la ripartenza delle attività FCA in Italia abbia determinato un grosso flusso di importazione di componentistica, materie prime, semilavorati, eccetera, in funzione a servizio del ciclo produttivo. Certo. E questo spiega, diciamo, in macroeconomia e contabilità nazionale le scorte sono per molti aspetti una variabile residuale, cioè la zeppa che si mette lì per far stare in piedi il tavolino. Però è abbastanza interessante questa anomalia, cioè un PIL che è fatto in maniera assolutamente rilevante da scorte, quindi una sorta di ripartenza, di riavvio di importanti ambiti di strutture produttive. Quindi il 2016 ci dirà qualcosa di più. Io ribadisco, io sono contento, diciamo, di questo contributo di FCA all'economia nazionale. Ricordiamo quello che ripeto da tempo: FCA è un'azienda profondamente internazionalizzata, una parte importante della produzione realizzata in Italia va all'export, di conseguenza un rallentamento globale impatta in maniera amplificata e moltiplicata anche sui livelli di produzione domestici. Teniamo presente questo. Dopodiché ribadisco per l'ennesima volta l'invito: smettiamola di fare guerre di religione sugli zero virgola, appunto, e dire che l'Italia è ripartita, è un trionfo ed erano 5 anni che non crescevamo così, perché veramente sarebbe anche il momento di comportarsi da persone adulte. Lo so, detto questo, è stato comunque divertente dal punto di vista metodologico il dibattito di questi giorni, da sottolineare il tempismo con cui dal MEF e anche dall'Istat si sono mossi a tentare di placare chi chiedeva semplicemente ci fate capire meglio le questioni sia sulle correzioni delle serie storiche ex post, sia dato grezzo e dato destagionalizzato, e erano molto in palla, cioè significava che dietro c'era anche un certo nervosismo, per così dire, ma non, ripeto, la questione non è mettere in dubbio il MEF. È quella della trasparenza dei sistemi di contabilità pubblica, tutto qui, perché nel merito ha mille volte ragione Mario Seminario, non è con lo 01, capito, che cambia, però il metodo è importante perché è un paese che dice cari contribuenti, lato scuro della forza, non può essere lui il primo a truccare i conti, per così dire. Però non è truccare i conti, però è vantarsi di avere un anno con 3 giorni di calendario in più, perché questo, quando tu ti vanti di una crescita che il cui contributo deriva per il 20%, anzi 24%, da 3 giorni di calendario in più, palesemente stai forzando i nessi causali. Questo è il problema, non è Istat, non ha fatto niente di sbagliato, no, anche il MEF. Il mio problema è l'uso strumentale, di un vanto politico a fronte di un dato di calendario. Bene, se il governo si deve vantare dei giorni di calendario, mi sembra che oltre a comportarci da adulti dobbiamo anche comportarci da, come dire, da logici, no? Non per ribadire, però quando, Carlo Alberto, tu hai detto che era importante che in questo paese si avviasse un dibattito pubblico sulla statistica, io ti ho detto sono scettico, perché vedrai che verrà fuori di tutto, gli stregoni col pentolone con dentro le carote che galleggiano, ed è, sta esattamente succedendo quello. Quando un paese dalla cultura profondamente antiscientifica e dall'analfabetismo numerico si mette a lavorare sulle statistiche, esce questo tipo di dibattito pubblico. Ma il nostro finestra di informatori, perché voi avete professioni più nobili, ma qui è una finestra di informazione, è quella di richiamare la necessità, appunto, un dibattito serio su queste robe. Noi non stiamo dicendo credete, stiamo dicendo su queste cose ci vuole rigore. Ecco, ci sono i giorni di calendario in più, si dice che sono i giorni di calendario in più, poi a fine Eurostat conta il dato grezzo e non quello destagionalizzato, ce lo ricorderemo quando ci saranno i giorni in meno, comunque spiegatelo. Ecco, questo è quello che vogliamo noi, dei numeri chiari, affidabili, trasparenti. Io vorrei il 2% di crescita, però che è quello che servirebbe per mettere a posto il paese, ma non solo per un anno ma per parecchi anni. Poi diciamo un'ultima cosa, dopodiché finiamo qui, perché ripeto, mi pare veramente tutto ridicolo. Quello che conta realmente ai fini della valutazione, ad esempio se un paese cade in recessione, no, le definizioni classiche eccetera, è il dato corretto per i giorni lavorati. Capisco che Eurostat lavora sulla base grezza anche per quanto riguarda le metriche di debito e deficit, ma qui stiamo facendo un discorso di crescita economica, quindi usiamo dati comparabili e che non siano manipolabili. E su queste parole di Mario sante, che sottoscriviamo, ci fermiamo qui sperando di aver dato un contributo alla saggezza generale. Tra un minuto torniamo e la questione è: tagli in deficit sì o no? Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Buongiorno, eccoci tornati. In realtà ve lo ridico perché spero così che qualcuno sia arrivato solo adesso ad ascoltarci, si fermi mentre sta modulando la sua radio, magari in automobile. Qui Radio 24 con i compagni dei Conti da Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Camerone Affè, Renato Cifarelli. E tra le altre cose, oltre al tema che introduco subito, siamo in attesa anche di un collegamento, perché butteremo un orecchio all'assemblea che è in corso di una nota grande banca con qualche problema nel nostro paese, visto che i soci della Vicenza devono prendere un po' di decisioni. Noi ci siamo molto occupati di banche e continuiamo a farle. Siamo della parte che non ha paura di criticare le cose che vanno, sono da criticare, sia dei regolatori che delle banche che devono rimettersi in piedi. Siamo nella minoranza che non ha paura degli interventi della BCE, anzi applaude agli interventi della BCE sulle banche che devono prendere queste decisioni. E ancora una volta non hanno capito l'area che tira in Europa, perché avevano chiesto anni per le fusioni, o hanno dei dubbi ancora su cosa fare, oppure per Carige ancora non hanno un serio piano industriale, ecco, quindi... oppure consigli di amministrazione di una trentina di persone, oppure esatto, mantenere l'organizzazione esatto, aziendale separata per 3 anni, esatto, e un trenino esatto. Esattamente. Allora avremo la nostra Camilla, la nostra amica Camilla Conte, che ci dice come sta andando l'assemblea. Detto questo, domanda, la faccio breve. Molti giornali hanno attribuito al Presidente del Consiglio, e devo dire ci sono state anche interviste come quelle del Vice Ministro Morando, l'intenzione di accelerare sulla via dei tagli alle tasse e, insomma, approfittando dei margini di flessibilità. Sapete che su questo c'è un punto aperto, su come si calcola la flessibilità, ribadito anche nell'incontro del Presidente del Consiglio con Juncker, ne abbiamo parlato già di questo. Ma insomma, lo stesso Francesco Giavazzo su Corriere della Sera domenica scorsa ha detto, insomma, prendiamone atto, questi tagli alle tasse, se il Presidente del Consiglio li vuole fare davvero anche in deficit, sì, li faccia anche in deficit, poi si occupi di coprirli con tagli alla spesa magari triennali, però se si tratta di concentrare tagli alle tasse in un tempo breve, sì, è giusto, bisogna farlo, dice Francesco Giavazzi. Allora, siccome il rischio è, vista la bassa crescita, dal rallentamento di crescita a livello mondiale in corso sui mercati, che il debito non scenda malgrado le buone intenzioni, perché manca la parte nominale di aumento del prodotto, cioè l'inflazione, tra l'altro vediamo cosa decide la BCE il 10 marzo, ci conviene arrischiare e fare tagli alle tasse in deficit? Ecco, questa è la domanda seria che ci poniamo, e con noi per parlarne è un consigliere del Presidente del Consiglio che insegna macroeconomia all'Università di Bologna, il professor Luigi Marattin. Grazie di essere con noi, professore. Buongiorno, grazie a voi. Allora, posso chiederle di dirci come, innanzitutto cosa si sbaglia e cosa invece si ha ragione ad attribuire davvero alla Presidenza del Consiglio su questo, al netto di quello che i giornalisti scrivono, secondo lei? Ma guardi, il piano di riduzione delle tasse è stato annunciato tempo fa, è un piano pluriennale, perché un altro difetto dobbiamo toglierci in questo paese è pensare che i problemi grossi che ci portiamo avanti da 20 anni si risolvano con interventi spot o interventi annuali. Noi abbiamo individuato il problema l'anno scorso, dicendo che in questo paese le tasse sono troppo alte per chi le paga e quindi vanno ridotte con una strategia pluriennale che agisca su vari piani. Si è iniziato l'anno scorso, come sappiamo, con le misure già operative, gli 80 euro, l'intervento sull'IRAP, la decontribuzione, eccetera. Si è proseguito quest'anno con una serie di altre tasse cancellate o ridotte, l'abitazione principale, l'IMU agricola, l'IRAP agricola, eccetera. E il piano, il cronoprogramma prevede nel 2017 un intervento sull'IRES. Noi sappiamo che l'aliquota in Italia è il 27,5%, la media OCSE sta intorno al 23,1%, quindi l'obiettivo è l'anno prossimo riportarlo alla media OCSE, servono circa 4 miliardi e mezzo per farlo, e nel 2018 completare questo cronoprogramma strutturale con un intervento sull'IRPEF. Questo è il cronoprogramma annunciato e questo è quello che al momento il governo ha promesso di fare. Poi è chiaro che in un quadro macroeconomico così complicato, come ricordava lei, sulla crescita mondiale, con un quadro non ancora chiaro con Bruxelles su qual è il quadro di regole fiscali e di finanza pubblica all'interno del quale possiamo agire, è chiaro che si può tranquillamente dire se c'è ulteriore spazio faremo di più o comunque anticiperemo il taglio IRPEF. Al momento io credo che sia ragionevole pensare che occorra rimanere su quel cronoprogramma, sul quadro preannunciato, sul quadro già preannunciato, sperando che sia possibile. Ecco, però a netto di quello che rigorosamente e correttamente ci ha richiamato sul quadro, perché mi sembra anche serio tenere presente dei vincoli e dell'evoluzione di come si interpretano le regole di flessibilità. Se ci sarà davvero uno sblocco, per esempio, sul fatto, io stesso ho scritto, naturalmente, però sono andato a naso ascoltando la giornalista, quello che sentivo intorno. Molti di noi hanno scritto dopo l'incontro con Juncker che uno dei punti aperti nel confronto con la Commissione europea, nel richiamo esplicito che il governo italiano fa, siamo d'accordo all'interpretazione su come si calcola la flessibilità secondo il testo del documento emanato dalla Commissione europea nel gennaio del 2015. Noi abbiamo capito che il governo italiano ha chiesto però che la Commissione stessa dica non siamo d'accordo con l'interpretazione successiva che il Consiglio europeo del novembre dell'anno scorso è stata data, per la quale si dice che i margini di flessibilità si possono se ne può beneficiare una sola volta nel via via che ci si avvicina all'obiettivo a medio termine. Bisogna essere pronti a darli, a riconoscerli agli anni, di anno in anno, anche integralmente, se nel frattempo l'economia mondiale va male, come adesso è infrenata, eccetera eccetera, e se si fanno altre riforme e così via. Mentre capiamo quello, in realtà, secondo lei, come giudizio, varrebbe la pena fare quello che dice Francesco Giavazzi? Cioè, lei dice, potremmo essere sicuri se facessimo dei tagli cui effetti in deficit nel primo anno sarebbero maggiori della nostra capacità di coprire con tagli di spesa e li riequilibrerebbero nel medio termine, ma ne guadagneremmo dal punto di vista macro come riaccelerazione della crescita? Come la pensa su questo, in realtà, lei? Ma guardi, io penso che le regole fiscali vadano rispettate, nel senso, soprattutto un paese che ha avuto in passato un grosso problema di credibilità, come abbiamo noi. Quindi le regole fiscali le dobbiamo rispettare e dobbiamo portare avanti questa interlocuzione aperta serenamente con Bruxelles per capire qual è il quadro per l'anno prossimo e per quelli seguenti. Su questo dopo, se posso, dico una cosa per me importante. Dica, dica, certo. La rappresentazione che si fa in queste settimane, insomma, che da un lato ci sono gli spendaccioni, noi, e dall'altro ci sono i custodi dell'austerità e del rigore, non è corretto, nel senso che noi stiamo cercando di dire, ripeto, sul breve termine, cerchiamo di capire qual è la corretta interpretazione di quella comunicazione sulla flessibilità che ha fatto la Commissione a gennaio scorso. Su un respiro un pochino più ampio, il discorso che il governo italiano sta portando in Europa è: le regole fiscali servono e devono essere rispettate, altrimenti l'unione monetaria non può funzionare e comunque un paese come il debito come il nostro non può fare a meno di regole fiscali. Ma siamo sicuri che queste siano le regole fiscali ottimali e più adatte? Atteso che, ripeto, un paese con un problema di credibilità passata come il nostro, le regole le rispetta per guadagnare reputazione e credibilità, ma contemporaneamente si può anche aprire un discorso su come siano fatte queste regole. Voi sapete che abbiamo due fondamentali regole, un braccio nominale e un braccio strutturale. Il braccio nominale sul 3%, voi sapete che nonostante le bufale che ogni tanto girano in rete e altrove, il 3% è un parametro calcolato sulla base di ipotesi macroeconomiche molto precise, e cioè che la media del debito sia al 60% in giro per l'Europa e la crescita media di lungo periodo sia al 3%. Questi erano parametri macroeconomici, sì, diciamo, che valevano 25 esatto, anni fa. Ipotesi, adesso, ecco. Quindi forse almeno spendiamo qualche tempo per pensarci. Il braccio strutturale personalmente mi preoccupa ancora di più, perché è sicuramente sensato che le regole fiscali stabilizzino l'economia sul ciclo nel medio periodo, ma è forse il caso di capire, il governo italiano lo sta facendo da tempo, ha presentato i due documenti, il ministro Padoan in prima persona, se questa metodologia di calcolo del PIL potenziale e dell'output gap sia davvero quella giusta, perché non so quanto, non è un argomento particolarmente sexy per il grande pubblico. No, certo, ma voi siete, è un argomento tecnico. Non quindi è possibile fare prescrizioni di politica fiscale, perché parlano miliardi, sulla base di un parametro come l'output gap, su cui il Fondo Monetario Internazionale stesso, sono dei recenti working paper, cominciando a dubitare. Ecco, sta cominciando a dubitare. Per rispondere alla sua domanda, perché non voglio eluderla. Il deficit, anche lì, spesa in deficit significa rispetto al percorso programmatico o rispetto all'anno scorso? Perché voi sapete che esatto, il dato rilasciato l'anno scorso, pochi giorni fa, 2,6%, è il più basso deficit PIL, con l'eccezione del 2007, da 15 anni. Quindi se capisco bene in sintesi, senza attribuirle pensieri diversi dai suoi, lei non l'ha detto, però... tenuto conto dei ragionevoli dubbi che il governo ha su come si calcolano questi criteri di convergenza europei, in realtà un percorso di riduzione sia pur marginale, progressiva del deficit, sì, e quindi approfittare il più possibile a quel punto anche del comportamento del deficit di tagliare le tasse. Non l'ha detto così, però insomma in, sintesi più o meno lavorare su questo. Anche perché nel frattempo il taglio alla spesa sono ineludibili. No. Io personalmente credo che stiamo mettendo in piedi dei grossi cantieri per continuare a farlo, il DDL Madia. La riforma del bilancio dello Stato, se non sta parlando poco, è un altro tema poco sexy. Lei sa che su questo ci sarà un canale sempre aperto con noi, perché da una parte noi diciamo, questa è la cosa che molti non capiscono a casa, molti dicono, ma come si paga? A chi bisogna capire? A chi bisogna credere? Mi scusi. Il governo dice, Renzi dice, 25 miliardi di tagli, tasse fatte, il più grande programma di taglio delle tasse che si sia mai visto. E la gente dice, poi andiamo a vedere il totale però della spesa continua a salire. Allora, siccome non è così chiaro alla gente e si rischia di far perdere fiducia a tutti, sia quelli che vogliono credere al governo, sia quelli che invece non vogliono credere al governo, cioè spiegare contemporaneamente che ci sono molti effetti di contenimenti dell'aumento tendenziale della spesa, A, B, che nelle manovre a fronte di questo ci sono anche riallocazioni di voci di spesa con aumenti di spesa in alcune poste, B, C, che il saldo è diverso dalla voce numero A, che gli effetti di contenimento della spesa tendenziale, perché il saldo deve tenere conto anche della voce numero 2, che è quello di aumenti di spesa da altre parti, che naturalmente quello che conta alla fine è solo il saldo, ma non è vero, perché nell'evoluzione della trasformazione del bilancio conta anche A, cioè come pluriennalmente cambiano le poste di spesa. Sono tutte cose un po' complicate da spiegare, basta farlo però col tono pacato, perché di solito la politica è uno che urla dicendo io l'ho tagliata e l'altro dice non è vero, e la gente dice buttiamoli tutti a mare. Se guardiamo i consuntivi, no? Guardiamo il consuntivo, vediamo il consumo intermedio, che diciamo, è l'aggregato su cui il virus della spesa pubblica spesso si scatena di più. Cioè, e lì, aspetta, gli dica il dato, ma tra un minuto, perché abbiamo l'interruzione stradale. Della belva. Eccoci tornati qua in diretta dopo le trasmissioni le comunicazioni sul traffico. È con noi il professor Luigi Marattin, che insegna macroeconomia a Bologna, è consigliere economico del Presidente del Consiglio. Siamo partiti da una domanda: gli volete fare o meno i tagli alle tasse in deficit accelerando? Il professor Marattin dice bisogna vedere i vincoli europei, ne stiamo parlando con i vincoli europei, vedremo, le regole bisogna rispettarle, sia pur ponendosi il problema legittimo se sono regole quando sono state scritte che davvero tenevano conto in maniera saggia dell'evoluzione dei mercati. Comunque il tragitto di correzione sia pur graduale di discesa del deficit, ok, in quell'ambito però vedere come fare. E stiamo parlando poi delle riduzioni di spesa. Prego. Sì, dicevo, la spesa pubblica, come diceva giustamente lei, non è tutta uguale, no? Soprattutto investimenti, dopo se è possibile magari parliamo anche di quello, perché il dato dell'altro giorno sulla ripresa per la prima volta degli investimenti fissi lordi secondo me è molto importante. Però al di là di tutto, una componente di spesa particolarmente aggredibile sono i consumi intermedi, anche perché è lì che si manifesta il vero virus della spesa pubblica. Per farci capire, forniture pubbliche. Esatto, quando la pubblica amministrazione compra materiale, compra un computer, eccetera. E ricordo sempre quel rapporto Giarda di qualche anno fa, no? Che andò a misurare che fatto 100 il costo di una fornitura da un privato, se lo compra il pubblico questo costo è 128,8. Quindi lì si annida il virus che ha rovinato questo paese, cioè usare la spesa pubblica per acquistare e remunerare consenso politico. Allora andiamo a vedere quell'aggregato dal 2014 al 2015, scende di 5 miliardi, erano 134 miliardi nel 2014, sono 129 nel 2015, e quindi quello è un ragionamento a consuntivo, quindi senza diciamo giochetti vari, che ti dimostra come che rivela. Ora bisogna andare avanti. Come la strada Consip inizia a essere battuta sempre di più, si può fare negli anni, questo sono d'accordo, questo è giustissimo. Però per fare questo, a mio parere, non serve, ma lo dice sempre il Presidente, il commissario che arriva dall'estero, che è un grande economista, non serve un economista per fare questo, nel senso che le ricette sono note, serve la volontà politica forte, perché ripeto, la spesa pubblica in questo paese è stata utilizzata come strumento di formazione e mantenimento del consenso, quindi è lì il tema che va cambiato, e serve una serie di strategie. Noi ce l'abbiamo, ci proviamo. Il DDL Madia con le sue 14 deleghe rifà il volto alla pubblica amministrazione. L'altro giorno il decreto legislativo sul codice degli appalti rifà le regole su come si fanno gli appalti in questo paese. Io dovessi dire in una parola, i miei compari qui sono tutti muti, io mi aspettavo qualche domanda, ma non riesco a capire. Io devo dire che mentre, per esempio, io do volentierissimo atto, ministro Del Rio, i cambi nella struttura di che cos'è la stazione appaltante, di come si fanno le commissioni per aggiudicatrici, del criterio per aggiudicazione delle gare, di chi paga se c'è un numero patologico come era prima, le varianti di un'opera e non più solo il pubblico, sono tutte cose secondo me molto positive. Metterei se dicessi che nel decreto, per esempio, sulle partecipate pubbliche della pubblica amministrazione, la riforma della PA, sono contento, perché mi dispiace, la nostra opinione resta che non ci siamo lì, perché si finirà per chiudere, detta proprio in due parole, solo o scatole vuote o società, quelle famose società che hanno dipendenti che amministratori, perché per tutto il resto il regime anche di eccezione ai principi generali che vengono posti per l'esistenza di società pubbliche invece che gestione di mercato risulterà troppo facilmente aggirabile ancora oggi, cioè sulle partecipate pubbliche le faccio un esempio concreto, quelle che Mediobanca certifica da 10 anni come le due municipalizzate più scassate per bilanci di debito dal punto di vista patrimoniale e conto economico, cioè Atacama, quelle resteranno così come sono, se ne cambierà la gestione ma non verranno liquidate e cedute, mentre invece secondo i criteri generali del decreto così dovrebbe essere, perché è evidente, perché violano tutti i limiti posti dallo stesso decreto attuativo, e invece non avverrà perché la facoltà è quella di eccezione, basterà un decreto del Presidente del Consiglio e si dirà Roma, Atacama, come si fa e finché c'è il regime dell'eccezione, Maratti, non è colpa sua, ma lo dico perché dopo 30 anni che osservo le partecipate pubbliche, ecco, lì si può far meglio, poi magari lei mi dirà vedrà che lo faremo, e io dico meno male, siamo qua per spingere. Aspettiamo altre osservazioni nostre? Io volevo fare una prece soprattutto. Ah, una prece, in ginocchio? Sì, in ginocchio da imprenditore, mi perdoni professore. Molto spesso quando si parla di calo di tasse nei confronti delle imprese si aggiungono due paroline che non mi piacciono molto, a invarianza di gettito. Allora, quello che sta succedendo è che molto spesso vengono tagliate le tasse nominalmente, quindi che ne so, dal 25 al 23, cose di questo genere, e poi vengono tolte una serie di deduzioni che rimangono tassate in modo da mantenere l'invarianza di gettito. Questa cosa qua, oltre al fatto che l'invarianza di gettito vuol dire pago uguali le tasse, vuol dire complicazioni ulteriori della gestione delle imprese e della pianificazione della gestione delle imprese, che è una cosa che è devastante per le aziende. Dice, se ci sono le cose fiscali devono essere nette poi gli effetti, non invarianza di gettito. Devono essere nette e facili da gestire. Che dice professor Martini? No, anche se fosse vero, ovviamente questo implica una redistribuzione del carico fiscale che di per sé non può anche non essere sbagliato, nel senso sposto a invarianza complessiva, ma il fatto è che finora non è stato così, come lei riconoscerà. Cioè sulla proposta di revisione delle tax expenditures si è dimesso Perotti, per dirne una, cioè quindi non si è agito sulle Roberto Perotti, che conoscete bene. Sì, io per esempio sono sulle... per una non... feroce revisione delle... io sono no, certo, con Perotti, però, si figuri. Con quanto dicevate prima, nel senso che finora le tasse sono state, le aliquote sono state ridotte o azzerate, come nel caso ad esempio della TASI, senza agire sulle detrazioni o tax expenditures, anche qualora si facesse, ma non è in programma, perché ripeto, proprio il problema, tra virgolette, che fece un po' arrabbiare Roberto, quella sarebbe una redistribuzione del carico fiscale magari verso soggetti, diciamo, su cui la politica economica vuole incentivare un determinato tipo di attività. 20 secondi sulle partecipate. Io insomma sono abbastanza d'accordo con lei, Oscar, però c'è un punto. Ovviamente noi distinguiamo i servizi pubblici locali dalle società partecipate, sono anche due decreti apposta, non per niente. Sì. I servizi pubblici locali, cioè i monopoli naturali, lì la cosa bella del decreto, oltre a stringere un po' di più sull'in-house, nel senso che l'in-house deve essere motivato, quindi provare nei limiti della disciplina comunitaria a fare la gara come disciplina ordinaria, lì si dice il bacino di affidamento non può essere subprovinciale, che è una rivoluzione, perché significa le aziende dei rifiuti e dell'idrico ce ne deve essere almeno una per provincia, non 4, 5, 6 come accade adesso. Cioè il mercato rilevante, il bacino su cui si fa la gara, è provinciale, questo di per sé ne poterà via un bel po'. Sulle partecipate invece, le strumentali o quelle che addirittura offrono servizi al mercato, che guardi, le confido un segreto, un liberale come me da cittadino, insomma, ovviamente all'orticaria quando vede che la pubblica amministrazione ha una società che si fa concorrenza con altre private, però lì il decreto è chiaro, Il decreto dice: le pubbliche amministrazioni possono mantenere questo tipo di partecipazioni solo se offrono servizi che il mercato non offre. Così dice. Ora, a Nicole del Vero, dopo c'è due righe in più, righe in più, su cui lei ha ragione, qualcuno si può insinuare per dire ma io faccio prosciutti e siccome il decreto dice che non offre il mercato oppure che il mercato offrirebbe a condizioni diverse, posso dire che il mio prosciutto lo offro meglio io che te. Voglio dire, a parte che il decreto va al Parlamento e può essere migliorato, speriamo, però, io temo sempre che vengano peggiorati in questo caso ulteriormente, però vediamo. Il però decreto è chiaro, questo è un processo aperto. Io posso fare una domanda di sinistra a Maratin, la posso fare, Oscar? Maratin, perché non tocchiamo le tasse sulle rendite? Magari intervenendo sui titoli di Stato, sugli immobiliari, sulle successioni, Maratin, perché non ci dici qualcosa su questo? Ma cosa di sinistra, no, questo devo fischiare, come arbitro fischio un rigore a favore del professor Maratin, non gli possiamo chiedere in due secondi una risposta su questo. Lo rinvitiamo però, l'impegno è a dialogare con questo stesso rispetto, con te e tono che abbiamo usato, però nel merito. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Chiedimi se sono felice live. Oh, mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data. Ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Quindi alle ore 15 ci vediamo con degli esperti educatori che faranno attività ludico-creative con i bambini. E subito dopo l'intervento di Igor Sibaldi e il mio sulla genitorialità. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica Palazzina Appiani, sabato 12 marzo ore 15. Ciao! Correte, iscrivetevi su radio24.it, siete nostri ospiti. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci qua, tornati in diretta dopo Generale Radio di Radio 24, le 11, 8 primi 38 secondi, compare dei Conti della Belva, sono in diretta dallo studio di Milano, vi salutano oltre Oscar, Mario, Carlo Alberto, Renato che porta Che stai dicendo? Perché stamattina quando sono arrivati in radio adesso non mettiamo in imbarazzo la nostra amorevolissima, bellissima e bravissima. Qualcuno mi ha guardato e mi ha detto: come mai arrivi sempre quando piove? Evidentemente adesso, perché quando, i nostri ascoltatori non capiscono. Bello, il nostro c'è Renato, bello, ho di il nostro da Renato fare. Sta parlando di una delle tante bravissime, anzi non tante, sono pochi, sono bravissimi, coloro senza i quali Radio 24 non esisterebbe. I conduttori possono sparire, ma il problema è che chi sta in regia è il personale tecnico. Che consente a queste trasmissioni di andare in onda con mezzi che, diciamo, l'azienda non ha proprio il meglio del meglio dal punto di vista della qualità, come è noto, come sanno molti ascoltatori sugli apparati, dico, dove il segnale anche non funziona. Se non ci fossero loro e i pochi sfruttati come rematori alle galere greche, coloro grazie ai quali sono gli editor dei nostri programmi, e con i nostri programmi non ci sarebbero. E allora Claudia è esattamente una di queste, e il nostro Renato è un po', c'è un po' la simpatia per Claudia, e questa stamattina Claudia, che è straordinaria come tutte le donne perfette da questo punto di vista, lo accoglie sempre con grandi sorprese, ma quando Renato è arrivato stamattina che bello vederti, e poi ha aggiunto: piove anche oggi, come mai quando arrivi piove sempre? È fantastico, le donne sono fantastiche. No, ma perché io quando non piove vado in giro in moto, piccatissimo. Va bene, chiudiamo sono questa parentesi. Sono innessi causali meteorologici privata. Ben comuni anche nelle analisi del nostro governo, no? Quindi, esatto, peraltro la metodologia è quella. Dove allora, abito io nevica, ragazzi, quindi andiamo a cose serie. C'è un'assemblea in corso, c'è un'assemblea di soci bancari, caro Carlo Alberto, che è in corso, eh? Che pensi tu di questa assemblea che è in corso? Perché adesso c'è un collegamento con una collega bravissima che è lì a seguirla. Alberto, che dici di questa bella assemblea? L'ho appena scritto, stanno scrivendo Camilla, ma anche altri, di questo ritratto dello smarrimento di un popolo, che è quello del nord-est, che ha le schiene spezzate dal lavoro e ha gli occhi lucidi per l'inganno subito. Questo non so come dirlo meglio, sinceramente. Stiamo parlando naturalmente delle migliaia di soci della Popolare di Vicenza, i cui vertici che hanno avuto un ruolo nella chiusura del giornale in cui era coinvolto anche Camilla Conti con me, che si chiamava Libero Mercato, e i cui vertici chiesero più volte agli editori all'epoca di farci smettere, e i cui vertici di allora sono oggi indagati per associazione a delinquere e falso in bilancio. Però i soci, di fronte alla perda di valore, Ranni hanno creduto nel fatto che il loro titolo valesse oltre 70 euro eccetera eccetera, di fronte al fatto che non è così e del fatto che bisogna prendere tante altre decisioni delicate, oggi c'è questa assemblea un po' delicata. Camilla, intanto grazie di essere collegata con noi. Chiara, tira lì. Sì, ciao, intanto piove come a Milano, anzi forse più di Milano. Io sono qua. E non c'è Renato, esatto. Fuori piove, ma dentro l'assemblea ovviamente è caldissima, un sacco di interventi, sono stati programmati 123 interventi per 2 minuti ciascuno, e anche il tempo di intervento è stato fortemente contestato perché in effetti 2 minuti sono veramente pochi. E come dicevate prima c'è molta tensione. Il giornale di Vicenza, vi segnalo che stamattina apre con un titolo: Banca Popolare, oggi la sfida fra testa e pancia. In effetti qua la testa dice quotiamoci in borsa, trasformiamoci in spanche, perché se no la Banca Centrale Europea ci imporrà il bail-in. Gliel'ha detto chiaro, o prendete questa decisione o... E i mali saranno più dolorosi per tutti, e però la pancia dice altro, perché il titolo 2 anni fa era stato pagato 62 euro dai soci e oggi vale 6. Quindi insomma sono molto molto arrabbiati. Ho sentito durante gli interventi anche qualcuno che dava la colpa alla Merkel, qualcuno che chiedeva di far uscire il Veneto dall'Italia, ma anche l'Italia dal Veneto, per cui diciamo è molto folcloristica come assemblea, e come era stata già quella di Veneto Banca qualche mese fa, però c'è tensione. Per adesso l'ordine pubblico, dal punto di vista dell'ordine pubblico, siamo tranquilli. C'è stato un brutto incidente stamattina, è deceduto un ragazzo di 42 anni che stava facendo servizio qua per i vigili del fuoco, però a parte questa tragedia per adesso tutto a posto. E va bene, un abbraccio a tutti i soci che hanno creduto alle mirabole fantasticherie che venivano loro raccontate sui bilanci della loro banca, e posso garantire che girando per l'Italia nei confronti con i clienti bancari si tocca con mano, da una parte il fatto che sia difficile per moltissimi accettare l'idea che lo Stato non sia il vero garante di tutti i loro risparmi. Molti sono convinti che sia ancora così. Ma Monti, non solo a Montemelluna, anche a Pontremoli sono convinti anche di questo. Anche a Pontremoli, abbiamo sperimentato. Noi in realtà quello che succede in Veneto non riguarda solo il territorio. Non lasciamoci ingannare dall'idea territoriale. Ci sono banche nel nord-est che in realtà sono espanse in tutta Italia, anche giù in Sicilia. Quindi è un tema nazionale. Oggi si parla molto di banca del territorio. In realtà oggi le banche sono europee, oppure probabilmente chiudono, bisogna dirlo con estrema chiarezza, se non accettano il nuovo sistema di regole. Questa elaborazione del lutto che avviene a livello territoriale è purtroppo ancora parziale, perché è un dibattito nazionale ed europeo, e il fatto che intervenga la BCE devo dire che l'informazione non sta dando una gran mano, perché l'informazione trasmette il messaggio prevalente di dire sono in posizioni di cattivi nemici che ce l'hanno con l'Italia, con le banche serie italiane, con le buone regole che ci hanno consigliato di andare avanti senza traumi. Quindi la gente si trova bombardata da questi messaggi, Mario. Non è che la gente ha un corredo di informazione che gli dice quello che dice Carlo Alberto adesso. C'è un SMS che è piuttosto interessante, che dice: carissimo Oscar, carissimi amici, dovete sapere che su 19 membri del CDA, della Popolare di Vicenza, all'assemblea si sono presentati solo il presidente Dolcetta, il consigliere delegato Iorio e altri 3 non di Vicenza. Tutti gli altri, per lo più esponenti del fallimentare notabilato vicentino, conclamati codardi, hanno avuto paura di metterci la faccia. Dimenticavo, manca anche Andrea Monorchio, quello che voleva ipotecare le case degli italiani a garanzia del debito pubblico. Me la ricordo. Applauso al nostro ascoltatore. Di sostanza, molto di sostanza questo. Applauso al nostro ascoltatore. Il bilancio che tira di quelli che mi fecero chiudere quel giornale, licenziamento disciplinare mi fu combinato. Io ne ho avuto ragione in tribunale, per essere chiari. Però è un bilancio, e questi sono i cittadini. Secondo me questo cittadino vale più di molti che scrivono pezzi sulla Popolare, se posso dirla, questa è la mia opinione fuori dai denti, di molti che scrivono pezzi giornalistici. Queste sono le opinioni secche che danno l'idea del vero bilancio di chi ci mette la faccia dopo anni e anni. Anche perché, diciamoci, nei consigli di amministrazione delle banche non ci finivano le persone che dovevano controllare, ci finivano le persone che dovevano rappresentare. Capisci che è un po' diverso, no? È un po' diverso il problema. Io lo capisco, però, caro Alberto, tu no. ma tanti altri tuoi autorevolissimi colleghi sono quelli che hanno servito e sottoscritto le perizie delle banche. Infatti il numero di accademici in cattedra che parlano su questi temi è scandalosamente basso. C'hanno anche loro le loro colpe, non solo i giornalisti, che io sono il primo a criticare, eh? Cioè, troppo piegati sul fatto che le banche pagavano bene, e tra costi di amministrazione delle banche, delle controllate, le SIM, che bella imbarcata dei professori su cui poter contare. E anche questo è stato un pilastro di questo sistema del consenso, che però continua a vivere, perché sui giornali italiani continua a essere raccontato che noi ce l'abbiamo più solida degli altri, e che la BCE è un'impropria intrusione, e che noi facciamo la vigilanza meglio dell'altra, e che come cazzo è possibile allora che dopo anni e anni abbiamo ancora MPS così? Ma perché ce l'hanno regalata ai tedeschi MPS così? O la spogliata un partito, eh? E non solo uno, perché le commissioni politiche in tutte le banche territoriali riguardano l'intero sistema politico italiano. Continuerò a ripeterlo, se qualcuno mi vuole cacciare per questo lo faccia, tanto lo hanno già fatto, sono vecchio, però continuo a pensare che questo sia il linguaggio giusto per farlo, perché da una parte bisogna dire ai clienti bancari: dovete capire come funzionano le nuove regole e il risparmio non è garantito dallo Stato, dovete saper scegliere, ecco, dovete capire che non è che tutte le obbligazioni sono uguali, l'obbligazione è sicura. Dipende, ci sono dei tipi di obbligazioni che mettono in conto per il titolo che vi è stato proposto che per esempio le cedole possano esservi non pagate a tempo debito, e anche se non ve le pagano magari si sommano. Altre volte c'è scritto che possono non pagarvele basta e che ci potete rimettere anche sul valore, a seconda del tipo di titolo che comprate. Non è solo scritto nelle obbligazioni, è scritto nel nuovo regolamento europeo, certo, che va compreso, letto, perché altrimenti siamo qua ad accusare l'Europa di aver stabilito le regole chiare. Però aspettate, nel frattempo quelle stesse regole valevano con la liquidazione coatta amministrativa prima, sì, perché se non ve lo dicono vi raccontano una frottola. Rischiavate la stessa cosa, eh? No, ma magari qualcuno va in giro a dire che è meglio la liquidazione coatta amministrativa. Siamo riusciti a leggere anche questo, bravo, invocando l'articolo della Costituzione, bravo, che tutela il risparmio. Bravo. Qui non si sa dove finisce l'ignoranza e dove comincia la malafede. Malafede. In commenti di questo tipo. Perché naturalmente questo è il modo per poi dire che sta meglio, questa peggio, viva la lira, abbassa l'euro, l'Europa, eccetera, eccetera. Però sulle banche. Quindi, grazie a Camilla per questo suo collegamento. Noi continueremo ad arrabbiarci dicendo che c'è un grande problema sistemico di responsabilità da accertare e di cambio di testa da assumere, di chi la gestisce una banca e di come deve essere gestita, dei criteri da accettare e condividere come favorevoli al cliente, i criteri della nuova regolamentazione della vigilanza europea. Perché sta succedendo tutto questo? Perché finalmente c'è una vigilanza europea che non guarda tanto a quanti amici degli amici del signor Zonin ci sono a Vicenza, come faceva la vigilanza per tanti anni prima. Oh, ma che, se ho fatto giornalismo non posso dirlo? E querelatemi, cacchio, querelatemi. Erano tutti piegati di fronte al presidente e ai suoi affari per tanti anni, e adesso chi a Vicenza se la prende nel culo dovrebbe avere anche qualche pezzo di carta in mano per dire: io mi assumo la responsabilità di aver coperto le chiappe a chi ha guidato quella banca per tanti anni, perché chi l'ha criticata ha perso il lavoro, cari miei, eh? È facile fare i signori che fanno carriera e soldi leccando il culo a chi per anni ha proceduto in quel modo. Adesso ci deve pensare la procura. Dite che non mi devo scaldare? Vabbè, hanno chiuso un giornale e mi hanno licenziato, punto. Punto, quindi c'è anche chi lo ha fatto giornale. Camilla Conti, collegata, era in quella squadra. Altri ragazzi che erano in quella squadra lo hanno fatto. Non stanno nei grandi giornali, continuano alla loro età perché ci credono in questo mestiere, a beccare pochi soldi dopo tanti anni di precariato. Me la fate difendere questa categoria di giovani giornalisti che non si sono piegati di fronte al potere? Io la difendo perché c'è anche gente che crede nel dovere di dover difendere i soldi dei risparmiatori come sono amministrati dai banchieri. Scusate la tiritura, però siccome Camilla è lì e continua a lavorare, io voglio dirle grazie a lei e a tutti quelli che ci credono in questo mestiere. Va bene, adesso basta. E comunque è colpa della Merkel. No, non è affatto colpa della Merkel. Bene, torniamo tra un minuto. Index protegge i sani edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta della belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 11:22 minuti. Sentiamo Mario da Milano, che voleva intervenire, credo ancora, sul tema che abbiamo trattato col professor Marattin su riduzione delle tasse in deficit. È con noi, Mario? Sì, ci sono ancora. Eccoci. Intanto complimenti per la trasmissione, che secondo me è una delle più informative che ci siano, anzi probabilmente la più informativa e la più seria che io conosca. Troppo buona. Molto telegraficamente, vi seguo sempre per questo. In primo luogo, mi sembra che il dibattito di politica economica in generale nella stampa, ma anche nel dibattito che talvolta conducete voi, è molto focalizzato, diciamo, sulle la microingegneria del modo in cui tagliare la spesa, la microanalisi dei singoli provvedimenti, tutte cose giuste, e premetto anche che io sono in favore di una razionalizzazione della spesa e così via, però manca un quadro generale nell'informazione, non parlo di voi, parlo in generale, del contesto macroeconomico in cui di solito il dibattito di politica economica dovrebbe essere, e faccio quattro osservazioni su questo molto, molto telegrafiche. Sono pezzi di informazione che sarebbero importanti se le persone lo sapessero. In primo luogo, che i paesi a cui noi guardiamo come possibili motori della crescita futura, parlo degli Stati Uniti e in parte Gran Bretagna, sono tutti paesi che sono andati ampiamente in deficit dopo lo shock della crisi. Quindi il motore della loro crescita, che non è eccezionale ma sicuramente molto migliore della nostra europea, è stato anche il fatto che hanno fatto funzionare la leva fiscale andando in deficit del 9-10% nel 2009. Secondo osservazione... Al volo, sui dati americani ancora oggi la componente di domanda interna spesa più rilevante anche nel 2015 è Obamacare, cioè lei ha ragione. Gli Stati Uniti sì, in Gran Bretagna no, perché il deficit è esploso per via della copertura della faccenda bancaria, e nel frattempo poi negli anni è andata avanti una riduzione della spesa e della domanda pubblica. Quindi bisogna distinguere questa storia che il motore della crescita è la spesa pubblica nel resto del mondo, non è vera in generale, bisogna distinguere di paese in paese, ecco, perché nel frattempo ci sono moltissimi paesi, anche europei, che hanno contenuto il deficit che era esploso nel dopocrisi molto più di noi in questi anni. L'Irlanda ha tagliato più di 10 punti di deficit, che anche lì era esploso per la bolla immobiliare bancaria. Quindi bisogna vedere, la spesa pubblica non è detto e non è vero che sia il vero motore. Comunque, ok, poi vado avanti. Io non ho una tesi preconcetta, voglio soltanto, e mi fa piacere questa risposta al volo, ma credo che il dibattito debba essere anche impostato su questi temi. Sì, ma ha ragione. Secondo punto, altrettanto importante, è che noi da oltre 20 anni abbiamo un avanzo primario, cioè le nostre spese vanno a remunerare interessi, cioè un problema finanziario. Se questa cosa fosse guardata dal punto di vista di un'impresa, il problema è da affrontare in termini di dibattito, non è soltanto quello della spesa corrente non da interessi, è molto grosso il problema del debito, e il dibattito, se elude questo problema e pensa che il problema del debito possa essere affrontato soltanto in termini di taglio di spesa corrente, è forse limitante, perché probabilmente non se ne esce, anche sì, per i tagli di spesa corrente. A patto che ci ricordiamo che interessi sono, diciamo, nell'ambito di 80 miliardi su 800, però. Quindi, no, però le grandezze, se mi dice... È vero, però vabbè, adesso non voglio entrare in questa cosa, se non con una terza osservazione telegrafica, perché poi lascio a voi sviluppare questi temi, volevo solo provocare. La terza cosa è che io ricordo, non ho i dati aggiornati, ma una cosa del 2010 in cui le voci di spesa venivano comprate a livello europeo secondo una classificazione Eurostat che le rendeva comparabili per singoli capitoli di spesa, e a parte la spesa per interessi, per singole funzioni, la spesa pro capite in tutte le voci italiane era sotto la media europea, tranne che la spesa per interessi. Allora, dal punto di vista dell'ammontare, cioè della quantità, non è così neanche questo, però lei dice facciamo la cosa comparata. Okay, facciamo questo. Sì. Ultimissima osservazione che mi piacerebbe fosse parte del dibattito, poi ognuno può prendere posizione che crede, è che quando si parla anche di fare un po' di ripresa in deficit, sì, che poi è un modo per rilanciare la crescita e poi attraverso la crescita assorbire il debito, bisogna anche chiedersi quali sono i capitoli da giocare, e siamo esatto, proprio sicuri che le tasse, la riduzione di tasse sia quella più potente, perché ci sono magari delle voci di spesa che possono avere un impatto molto maggiore. Ecco, tutto lì. Sì, giustissimo, sono d'accordo. Il problema del debito, di come gestire il debito, diciamo, in condizioni normali il rapporto di indebitamento si piega con la crescita, questo però sta diventando una tautologia, cioè se cresciamo di più il debito sul PIL scende. Nel 2015 Istat ha comunicato che il PIL nominale italiano è cresciuto dell'1,7%, il costo medio del debito pubblico è intorno al 3%. Questo vuol dire che noi abbiamo bisogno di un avanzo primario per puntellare la differenza tra l'1,7% di PIL e il 3% di costo del debito. Se noi avessimo un PIL nominale che cresce almeno del 3%, non avremmo bisogno dell'avanzo primario, avremmo bisogno di un avanzo primario minimale. Se avessimo un PIL nominale che cresce più del 3% e un costo del debito sotto il 3%, il rapporto debito-PIL piegherebbe spontaneamente. Esatto. Purtroppo queste sono cose che sappiamo da sempre, però cioè, manca la crescita e poi la spesa pubblica manca italiana... Crescita, aspetta, e noi stiamo andando a una riduzione dell'avanzo primario invece che a un rafforzamento sì. Che viene indicato come necessario dalle considerazioni che giustamente stai facendo. Sì, però diciamo l'avanzo primario bisogna anche dire che sottrae risorse all'economia. Giustissimo, infatti. E soprattutto bisogna anche dire che non tutta la spesa pubblica e non tutti i tagli di tasse hanno lo stesso impatto depressivo o espansivo sull'economia. Voglio dire, su questo richiamo sempre al libro. Sono passati pochi anni, un po' di tempo da che Mario l'ha scritto, ma resta un punto di riferimento per quello che ci riguarda. Ad esempio, cioè, tagliare l'imposizione sulla prima casa, io ho dei seri dubbi sia per l'importo medio di 230-250 euro nucleo familiare, ma che abbia un impatto moltiplicativo su consumi e quant'altro. Questo poi non è che stiamo qui a fare dogmatismi, mi pare che l'idea sia quella. Non tutti i tagli di spesa e non tutti i tagli di tasse e viceversa, immagine speculare, hanno lo stesso impatto. Naturalmente, se noi, io volevo ricollegarmi rapidamente a quanto si diceva prima nel colloquio con professor Marattin. Adesso è venuto fuori questo spin molto domestico lo scorso fine settimana. Io sono riuscito persino a leggere e a sentire su giornali e telegiornali: l'Italia proporrà in Europa di scorporare dal deficit pubblico la riduzione della pressione fiscale, il che mi pare come definizione abbastanza etilica. Dopodiché, se noi tagliamo diciamo le tasse, dobbiamo anche capire quali tagliare. Ma chi lo decide? Allora, dobbiamo cedere sovranità per farlo decidere ad una sovrastruttura? Dobbiamo decidere noi e accettare che gli altri ci facciano lo sconto? Quindi c'è tutta una serie di argomentazioni che bisogna sviluppare. E non è così semplice, purtroppo. Va bene, però questi, devo dire oggi il livello degli ascoltatori è altissimo. C'è qualche altro sms? No, c'è solo il solito che a quest'ora qua fuori. Secondo me è proprio programmato, perché il sabato intorno alle 11:30 arriva quello dell'inculcare. Ma secondo me è quello, lui l'ha impostato con un algoritmo temporale e gli parte automaticamente. Però il programma si è incartato per quell'altro, dice andate a casa vecchi e cariati. Di quello non è ancora arrivato. Si vede che quello comunque la domanda sul bail-in è incostituzionale, ogni tanto c'è anche qua, vogliamo chiarire un fatto, insomma, la direttiva europea non modifica la tutela del risparmio e non è neanche retroattiva, insomma, parliamoci chiaramente. I signori martellatori del no euro che su queste cose raccontano mongolfiere, ecco alla fine. Io penso che dovremmo tutti ringraziare invece il lavoro di pulizia, di rigore al quale ci sta costringendo la disciplina europea, perché finalmente fa emergere tanti equivoci, tante ignoranze, costringe un popolo che ha sempre guardato il rapporto con le banche in maniera passiva, in certi casi ingenua, in certi altri casi completamente irresponsabile, a guardare i numeri, i fatti e le leggi. Io trovo che tutto questo sia una grande forma di educazione. Poi Oscar, una cosa rapidissima. Siccome c'è l'ascoltatore Marco che ha mandato una sequenza e non è il primo sabato, che dice parlate poco di Carige e complimenti. Marco, cosa dobbiamo dire? Onestamente, c'era un piano industriale che è già andato a pallino. La sorveglianza europea e la BCE chiedono una ridefinizione del piano industriale. Aspettiamo che i vertici della banca ci lavorino sopra. Già ho visto che hanno abbattuto avviamenti che non so da dove uscissero, e aspettiamo fiduciosi. Quello che a me fa sinceramente sorridere, per non dire altro, è che ieri sera sentivo nei telegiornali gamba tesa dell'Europa su Carige. Ma questo è il tono dell'informazione che crede di fare, di servire le istituzioni e i risparmiatori italiani, e che propala stronzate, capisci, sul fatto che abbiamo il debito pubblico più sano del mondo, le banche più sane del mondo, e che gli europei gli europei vogliono uccidere queste banche così sane con queste nuove regole che sono incostituzionali, perché basta tornare alla lira, stampare e avere banchieri ladri come prima e tutta l'Italia resta com'era. Infatti resterebbe com'era, questa è la mia idea, non un granché a dire la verità, però pare che questo non si debba dire. Allora torniamo tra... state dando ragione a Keynes, ci chiede un ascoltatore. No, noi non stiamo dando ragione a Keynes, noi ci interroghiamo, caro ascoltatore, sul fatto quali sarebbero gli effetti di avere aumenti, tagli alle tasse e di che tipo, ci dice un ascoltatore, e Mario gli dice certo, e di che tipo, mica in generale, facendoli in deficit piuttosto che no, questa mania di classificare, no, no, però è che vuoi fare, bisogna dirlo ogni tanto, però gli ascoltatori nostri dicono ah, quindi non siete coi paraocchi. Ma perché dovremmo essere coi paraocchi, ci chiede un altro. Noi abbiamo delle nostre idee, ma parliamo ogni volta di una situazione che muta nell'Italia, nel mondo. Noi qui non crediamo di essere portatori di scuole, capito? Anzi, diffidiamo di chi pretende ogni volta di avere la verità in tasca. Vorrei che fosse chiaro lo spirito della casa giusta di queste quattro persone. Per esempio, queste quattro persone su alcune cose la pensano anche diversamente. Negli anni, con Mario Seminario, che da anni sostiene, guardate che il perimetro della pubblica amministrazione italiana è tale che, come state facendo i tagli, avrà un effetto negativo e a volte disastroso, perché l'ha scritto anni fa. Io ero dell'idea all'epoca, prima di avvicinarmi a quello che pensavo, dicevo, ma insomma, sì, però pur di ottenere l'effetto grosso, ecco, quindi nessuno di noi è convinto di essere nato imparato. Guardate, cari ascoltatori, è lo spirito di questa trasmissione. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta. E, alcuni ascoltatori qui sul WhatsApp che guardo io oggi ci chiedono: questo potrebbe essere interessante per un approfondimento delle nostre puntate, un approfondimento su, visti i dati del PIL di cui abbiamo parlato oggi, di quanto l'Expo ha contato davvero sul PIL nel 2015 rispetto alle promesse. Attenzione, infatti Mario sta facendo gesti apotropaici, però attenzione. Un altro ascoltatore dice: anche perché, visto che fanno la stessa promessa sulle Olimpiadi per il 2024, ha un senso farlo ex post sull'Expo in previsione delle Olimpiadi. Quindi grazie, cari ascoltatori. Aspettiamo di scoprire il buco dell'Expo, il buco reale dell'Expo. Poi vi diremo cosa ha creato, diciamo. Questo è un criterio giusto delle vostre richieste. Cioè, usiamo i dati di un evento appena avvenuto, prendiamo le previsioni, vediamo se sono confermate o meno di quanto sul PIL e applichiamolo poi alle roboanti. Roboanti davvero, io l'ho detto appena... ho visto l'annuncio delle Olimpiadi, poi mi è arrivato nel frattempo un documento, non il vero piano ancora di presentazione del dossier, sono abbastanza trasecolato, ma adesso in pochi secondi non voglio dire cosa penso, approfondiremo sulla proposta delle Olimpiadi. Ma grazie a lei 212 numeri finali che ci dà questa idea, perché secondo me l'idea è molto giusta. Allora, ho letto un libro che a me è piaciuto tantissimo, è un libro, lo dico per gli ascoltatori, è un libro anche un po' tecnico, cioè è un libro per addetti ai lavori, per così dire, per chi seriamente si vuole porre il problema. Ma come mai, dopo tanti anni di annunci di semplificazione nel nostro paese, in realtà gli effetti sono così diversi dalle attese? E cioè continuiamo a stratificare fonti normative, livelli normativi, gerarchia delle fonti, da quella europea fino alle circolari. E la semplificazione è una specie di lotta titanica, di una prova di Sisifo che non mantiene le promesse. È un libro, dico per appassionati della materia, che non credono che a un problema così complesso ci sia una risposta semplicissima, fatta solo di intenzioni, e che quindi è articolato poi in numerosi capitoli che approfondiscono cosa è successo in questi anni davvero e quali sono stati gli esiti rispetto, quindi l'impatto regolatorio delle riforme che ci sono state, è un tema che a me piace molto. Io vorrei un paese in cui ci fosse l'analisi dell'impatto della regolazione ex ante ed ex post, fatta da organi terzi di aiuto al Parlamento e al Governo, perché io credo che questa dovrebbe essere uno strumento necessario per la qualità della legislazione in un processo never ending che non deve finire mai, perché ci devono essere leggi a tempo apposta per gli effetti che provocano, e ce ne devono essere altre che devono essere monitorate con costanza. Ecco, il libro di cui parliamo oggi, qui abbiamo l'autore, che io molto voglio ringraziare, oggi lavora in Banca d'Italia, è stato ricercatore per anni, è un libro che fa proprio questo tipo di analisi, lo fa un'analisi seria, quindi troverete il capitolo sulla giustizia, sul mercato del lavoro, su appalti e lavori pubblici, eccetera, eccetera. Il libro si intitola L'imbroglio della semplificazione, perché siamo noi le vittime della guerra alla burocrazia. E io ringrazio l'autore, non so di averlo scritto con tanta dottrina, si vede che è una persona, ripeto, del mestiere, no? Non è un libro narrativo fatto da un giornalista, e si chiama Andrea Carapellucci, grazie di essere con noi. Grazie a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, io ho tentato di spiegare perché secondo me questo è uno dei migliori libri su questo argomento che sono usciti negli ultimi anni, che c'è un lavoro serissimo fatto per ognuno di questi capitoli. Ma naturalmente mi tocca fare la domanda dello scemo, cioè del giornalista, e cioè la domanda è: ma se lei a quel punto dovesse condensare le conclusioni del suo libro e quelle che ci sono capitolo per capitolo, perché sono questioni distinte, e dovesse dire ai nostri ascoltatori, ergo io farei questo, come risponderebbe alla mia domanda scema? E le chiedo scusa nel farla così. Ma guarda, il libro, come avrà visto, contiene anche qualche proposta. Come no? Per rispondere alla sua domanda, forse il punto è che in questi anni gli obiettivi dichiarati non sono stati quelli reali, ed è questa la ragione per cui diciamo il risultato non è quello sperato. Io ho l'impressione, ed è quello che cerco di spiegare in questo libro, che l'obiettivo principale di queste politiche di semplificazione amministrativa fosse diverso quello che tutti immaginano, e cioè semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, e in particolare che l'obiettivo reale fosse trovare nuovi sistemi per ridurre la spesa, per ridurre il lavoro dei pubblici uffici e per rimediare alle inefficienze della pubblica amministrazione, soprattutto in alcuni settori, facendo a meno di lei, cioè creando delle regole che consentissero di non passare attraverso il lavoro degli uffici pubblici. Questi, secondo me, sono stati gli obiettivi reali e hanno prodotto dei risultati che però sono molto diversi da quelli che dalla speravamo. Promessa, tra virgolette, no? Sì, sì, sì. Quindi, se dovessi dire, non c'è, come diceva lei, una soluzione semplice, esatto, al problema della complessità del funzionamento dell'apparato burocratico, e già cominciare a capire questo sarebbe un passo avanti. La ragione per cui 20 anni di semplificazione amministrativa non hanno funzionato, secondo me, è che hanno funzionato, ma non per quello per cui venivano dichiarati. Cioè, posso dirle una cosa però? Io a volte mi sono reso conto, dopo 30 anni di osservazione, soprattutto dei vertici, cioè delle parti apicali della pubblica amministrazione, che ha assunto un ruolo sostitutivo, non integrativo, ma sostitutivo spesso, nello stesso procedimento legislativo, nella redazione delle norme. Questo è avvenuto in maniera clamorosa, in maniera tributaria, ma avviene in tutto ciò che ha riguardato per 20 anni, prima che cambiasse adesso registro e cambiandolo le persone. Per esempio la redazione di testi, come si procedono alle gare d'appalto, cos'è una stazione appaltante, e sono stati i vertici della pubblica amministrazione a scrivere le norme per 20 anni. Allora io mi chiedo se quello che lei ci ha appena detto non sia una conseguenza non tanto inintenzionale, come più delle volte avviene nel mondo della politica pubblica, io sono lecchiano, ma una conseguenza intenzionale di chi le ha scritte davvero quelle norme, perché erano direttori generali della pubblica amministrazione, non politici. Potrebbe esserlo, però proprio nel libro faccio un esempio sul quale spendo un bel po' di pagine, cioè quello del silenzio assenso, sì, nel quale l'atteggiamento iniziale della burocrazia, diciamo, dei ministeri, era assolutamente ostile, e il legislatore, per superarlo, ha poi scelto, a mio avviso, di fare più danni che vantaggi avrebbe potuti fare. Quindi forse quello che dice è vero in alcuni settori, e credo che lo sia assolutamente in ambito tributario, un ambito che però non tratto in questo, sì, in questo libro, e in altri però non è così, in altri è la pervicacia del legislatore che ha cercato con soluzioni dubbie, diciamo, di rompere una resistenza, senza capire che forse più che rompere la resistenza il problema è far funzionare ciò che non può non funzionare in un'economia avanzata. E senza l'intermediazione della pubblica amministrazione in alcune funzioni, uno Stato moderno semplicemente non può esistere. Allora, io mi permetto di dire che questo libro di Carapellucci sarà il criterio col quale analizzeremo nelle prossime settimane una serie di interventi, perché ci toccherà farlo, per esempio, in tutta la nuova disciplina dei contratti e degli appalti pubblici, perché questa, se ben presa e ben attuata, può essere una rivoluzione, se no può essere l'ennesima delusione, perché questa è una parte fondamentale dell'efficienza del nostro paese, quella dei lavori pubblici. Quindi noi riutilizzeremo e richiameremo Andrea Crapellucci da questo punto di vista. Intanto lo ringraziamo per il libro e per gli spunti che ci ha dato. Cari miei, guardate che, ma voi avete avuto almeno una volta nella vita una semplificazione pubblica che vi ha stupito in positivo, Renato? No, no. No. Beh, no, no, risposta no. Breve, no. No, dal punto di vista aziendale, no. Negli ultimi gli anni gli sportelli unici alle imprese, no. Gli sportelli unici non sono mai partiti. Beh, perfetto, no, sapevo che bastava chiedere. No, ma purtroppo è una cosa sulla quale è troppo complicato. Ma è troppo complicato e non c'è una volontà, soprattutto politica, al di là di quella burocratica, per farli partire. Perché negli ultimi anni, quello che è successo secondo me nella pubblica amministrazione, che ha fortemente invalidato il rapporto con le imprese, è che hanno paura di fare qualsiasi cosa, di venire poi tacciati di averlo fatto per motivi, cioè di, capito, però. Non lo so, o non aver rispettato la legge o cose di questo genere. Perché siamo in un paese dove ormai ci sono talmente tante leggi che è sempre facile trovare il modo per accusare una persona. E quindi la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese cosa ha fatto? Ha evitato di scegliere, no? Noi, so che ne hai parlato anche tu in trasmissione, ne volevo parlare anch'io settimana scorsa, poi era saltato il collegamento, quella cosa di Genova per cui in Cina sono partiti in un anno... E qui devono riunire 32 enti. Una conferenza di servizi per fare uno stabilimento. Per una conferenza di servizi per fare uno stabilimento. Tu capisci che quando devono intervenire 32 enti, ecco. E 32 infatti, persone. Che fai è esattamente rientra nel nuovo codice degli appalti del Rio. Quindi speriamo che quello che ci è promesso nella delega venga attuato, perché potrebbe cambiare molte cose. Abbiamo un minuto e poi torniamo. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi. Della Belva. Allora, eccoci qui tornati in diretta con la nostra squadra dei conti della Belva. Ci dice un'ascoltatrice a proposito di semplificazioni: sono riuscita a scegliere per il medico di base dallo sportello virtuale sul web, ma prima però sono dovuta andare a prendere il PIN allo sportello. Esatto. Quindi, come si vede, le tanti esempi delle contraddizioni tra digitale e analogico nella pubblica amministrazione. Caro Carlo Alberto, non ti danno retta questi. No, problemi. No, però voglio avvertire che io non aspetto nulla dalle semplificazioni, aspetto però una cosa importante da una rivoluzione potenzialmente straordinaria, quella che stanno facendo alcuni parlamentari in discussione per la riforma, cioè separare i dati dai processi amministrativi. Se lo Stato tiene i dati separati e accessibili, quello che si chiama il back-end, e lo rende trasparenti tramite degli accessi digitali, allora noi non abbiamo più bisogno che la pubblica amministrazione semplifichi se stessa, perché non lo farà mai e per in perfetto conflitto di interessi per difendere le proprie rendite, questa è la verità. Avremo invece una contendibilità dei servizi amministrativi da parte dei privati, perché l'accessibilità ai dati sarà garantita. Se riesce questo, funzionerà molto, ma molto meglio che qualsiasi incredibile e inattuabile riforma della semplificazione. Alcuni mi chiedono di ripetere il titolo del libro, l'autore Andrea Crapellucci, che lavora in Banca d'Italia, ricercatore economico, il libro sulla semplificazione si chiama L'imbroglio della semplificazione, perché siamo noi le vittime della guerra alla burocrazia, questo è il titolo. Ma d'altra parte poi se noi andiamo a vedere anche nel privato c'è la protezione del proprio posto di lavoro, perché semplificare vuol dire lavorare meno o avere meno cose da fare. Capito, anche nel privato, però, no? C'è una deflazione, deflazione lavorativa. La produttività. Capito, non mi fare adesso il Farinetti che dice che internet lavora. Io, mi ha molto colpito quell'intervento. Io quello che voglio che dire internet è la morte del lavoro, e no, quindi nemico, bisogna. Io quello che voglio dire è che. Scarfarinetti. Allora, questa. Allora, il conflitto fra lavoro e produttività è un conflitto che deve essere gestito da chi governa o da chi dirige l'azienda. a questo punto non ci sono molte alternative, perché l'alternativa al maggiore produttività è che non che sparisca il tuo posto di lavoro, però, perché ne spariscano in generale, ma spariscono. Che spari certo, nelle aziende, nelle aziende l'alternativa sai qual è stata? Che sono sparite le aziende, esatto, sì, sì. Sono 25 certo anni di bassa produttività italiana che ci dimostrano questo tema, che non esiste nel dibattito pubblico, cioè, ovviamente. Certo, sì. Che poi nella pubblica amministrazione la pubblica amministrazione non sparisce, perché questo non dovrebbe sparisce essere il comune vero, di Milano. Il vero, la vera leva per far crescere il denominatore, cioè il PIL, però mi stupisce che in questo paese, diciamo, con la cultura che lo caratterizza, non si sentano sempre più voci anche nel dibattito quotidiano dire sì, ma la crescita della produttività e l'avvento della tecnologia distrugge il lavoro, pertanto fermatevi. Per questo l'intervento di Farinetti mi ha preoccupato, perché quando Farinetti che diciamo di mestiere non fa l'intellettuale accademico, diciamo va alla scuola del PD, rilancia un tema di cui ha sentito la maturità per farlo esplodere. Per quello, secondo me, è un anticipatore Farinetti, no, che adesso è molto bravo, siccome bisognerà andare alla produttività, i contratti aziendali, la diversa maniera di concepire il confronto sul lavoro e così via, perché con il nuovo presidente di Confindustria questo diventa una delle parole d'ordine necessarie. Secondo me Farinetti ha colto quello che dicevi tu, Mario, e ha iniziato a dire oh, attenzione, noi stiamo con Mariana Mazzuccato, lo Stato fa l'innovazione e lo Stato tutela l'occupazione, se iniziamo a dire produttività, altrimenti grande ondata nei servizi privati e pubblici alle imprese, nei servizi pubblici ai cittadini, come ovvio produttività significa anche significativi impatti, caro Carlo Alberto, su le piante organiche. Però il trucco che usiamo, Carlo Alberto è zitto questa volta. Però il trucco che si usa in azienda non è eliminare i posti di lavoro, è fargli fare delle cose o migliorare i servizi. Però guardate che fargli il punto fare altre è cose. Che la sola idea di accettare il confronto su tecnologia e occupazione così è sbagliata, perché quello che manca è la capacità di ancorare la visione del cambio di produttività alle straordinarie moltiplicazioni che vengono dal digitale e dalla tecnologia. Questo è il punto vero, cioè sembra che così noi riproduciamo la vecchia questione luddista, mentre invece quello che in Italia non si continua a capire, ce ne occuperemo quando torneremo a fare un grande confronto sulla proposta di legge sulla sharing economy che è stata avanzata dal gruppo trasversale dell'innovazione. Ieri ho fatto una prima puntata e ho strappato loro l'impegno a fare un confronto vero. Perché lo merita quel confronto. Esatto. Ci sono parti molto interessanti, parti più critiche, e dobbiamo tornarci assolutamente. Ma anche in quel caso il paradosso è che proprio loro, che sono tutti consapevoli del fatto che quello è un pezzo della rivoluzione della produttività, ma non è solo un pezzo di rivoluzione della produttività, è un pezzo della maniera di cambiare l'incrocio della domanda con l'offerta. Quindi noi siamo ancora fermi a un punto in cui il servizio finanziario, se gli fai un servizio solo su internet, ti dice oh momento, forse io a te ti devo tassare in qualche modo un onere, perché io già ho problemi di eccesso di personale rispetto alla bassa redditività della mia banca. Sì. Cazzo, se io mi metto adesso ad aggirare ulteriormente i miei dipendenti e i miei mattoni delle sedi fisiche, sì, con il servizio digitale è come se mi dessi la zappa in mezzo alle gambe. E invece no, è il contrario, questo è il problema. Tu dovresti vivere questo come il momento giusto per fare rotazione di clienti dagli altri, per tentare di fare acquisizione di portafogli dagli altri, puntando proprio adesso su che cos'è la relazione con mercato. Il cliente. Si chiama mercato. Chi è capace di andare avanti va avanti. Senti, però, io c'avevo guarda il mio... che le nuove tecnologie digitali servono a questo. Ho la mia cosina da raccontare. Allora, dai, che abbiamo un minutino, un minutino. Dilla. Allora, una cosina che mi hanno segnalato questa, e non guardare solo Claudia, questa non guardare no, Claudia attraverso il vetro. Non sto guardando un minuto. Io stavo guardando quanto un tempo minuto abbiamo. Vai. Allora, il Consiglio di Stato abbassa gli stipendi ai professori perché ha problemi di budget e quindi abbassa gli stipendi ai professori. Per compensare il fatto che gli hanno abbassato gli stipendi, chiude un giorno in più le scuole. I professori cosa fanno? Per dare servizio tengono le scuole aperte. Di dove, accade di, in Italia? Ecco, di dove avviene? Mi sa no, di no, mi sa di no. Accade in Svizzera. In Svizzera, viva la Svizzera! Guardate, Conti la Belva per disperazione può essere che dichiari guerra alla Svizzera e si faccia prendere prigioniero, però a patto che ci tengano lì. Continuate con Radio 24, grazie da parte mia di Mario, Carlo Alberto, Renato e anche Claudia e il mitico che ci abbiamo qui di Fontanelle, l'Arcigno, che dalla regia ci manda in onda. Mamma mia! E continuate con Radio 24, però lunedì alle 8:15 con me Alessandro Milan. Attenti a noi due!